Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. C'est un devoir patriotique suprême, le meilleur des dons de soi. Je suis candidat. C'est vrai, je n'ai pas fait d'études supérieures, mais la présidence est une fonction et non un métier. Politique, politicien, c'est fini. Nico Fina, regardez. È un dovere patriottico candidarsi alla presidenza, è vero, sono candidato, alla fine la presidenza è una funzione, non è un mestiere. La voce, il canto che sentite è quello di Youssou N'Dour, star senegalese, cantante, pop star indiscussa del continente nero e non solo, ma è anche imprenditore. Youssou N'Dour è proprietario di radio, di una TV, di un giornale e da adesso, da ieri sera, candidato alla presidenza. Perché in Senegal, nel grande paese africano, si vota per il primo turno delle presidenziali il prossimo 26 febbraio. E tra i candidati, che sono già una ventina, che dovranno succedere ad Abdoulaye Wade, che è in carica dal 2000, ci sarà anche lui. È un paese tranquillo il Senegal, nel senso che non ha vissuto particolari guerre civili, rivoluzioni, come invece tanti altri paesi vicini. Però una brezza, se non un vento di rivoluzione, è spirato in quel paese, in particolare l'estate scorsa, quando un movimento di piazza che si chiamava Yamar, ne abbiamo abbastanza, portò in piazza migliaia e migliaia di giovani che protestavano contro l'aumento dei prezzi e contro la corruzione e contro il governo di Wade. Vedremo adesso se Youssou N'Dour riuscirà a capitalizzare anche in parte l'eredità di quel movimento. E il programma di Youssou N'Dour, per ora abbozzato, è molto semplice e prevede la risoluzione del conflitto mai sopito in Casamance, che è una regione del sud al confine con la Guinea-Bissau, lo sviluppo dell'agricoltura, della sanità pubblica e dell'istruzione. Insomma, sfide non da poco, ma tanto comuni a tanti paesi africani. E da Dakar, gentili ascoltatori, torniamo qui a Milano, dove vi salutiamo. Il saluto vi viene anche da Riccardo Poli e Miriam Lucchetti, che sono in redazione, Pietro Lacorte, che anche quest'oggi darà musica e ritmo a questa puntata. Il saluto viene anche da parte mia, Giampaolo Musumeci. Vi ricordo le coordinate per interagire con noi: 349-238-6666, gli sms, la pagina Facebook è Nessun Luogo è Lontano, la mail nessunluogo@radio24.it. Allora, Dakar, Milano, e adesso Joss in Nigeria. Want to say that what we have done today is just an intro to what is to come. What we have done today is to open the register of our protest against the satanic subsidy removal. It's goodbye to cheap subsidized petrol for tens of millions of Nigerians. Che cosa accade nel più grande, nel più popoloso paese africano? Le due grandi sfide di Goodluck Jonathan e il presidente sono gestire quelle che sono le proteste che sono iniziate oggi dopo il taglio ai sussidi alla benzina. E quindi il prezzo del carburante, che alla pompa è praticamente raddoppiato se non triplicato, con tutte le conseguenze del caso. E dall'altra parte, se ci seguite, avete sentito la scorsa puntata, una delle scorse puntate in cui abbiamo già tratteggiato la crescente minaccia dell'estremismo islamico targato Boko Haram. Quindi questi due sono le due grandi sfide che la presidenza di Jonathan deve affrontare. Da un lato, appunto, il crescente malcontento della popolazione e gli scioperi che si susseguiranno, e dall'altro uno stato d'emergenza e l'ultimatum dato ai cristiani da parte della setta islamica Boko Haram, che ha detto: avete 3 giorni di tempo, poi negli stati del nord e del centro inizieranno gli attacchi. Sta quindi sudando freddo Goodluck Jonathan, il presidente nigeriano cristiano del sud, quello tanto contestato perché non ha rispettato la non scritta ma abituale alternanza tra la presidenza musulmana e quella cristiana. Alessio Fabiano, quanto sono cruciali queste due sfide per il governo nigeriano? Intanto buongiorno, Fabiano è esperto di storia dell'Africa contemporanea all'Università Cattolica di Milano. Sì, buongiorno a tutti. Come giustamente sottolineato, si tratta di due situazioni molto delicate per il governo di Jonathan Goodluck, e comunque io tenderei a distinguere quella che è la rivolta di Boko Haram dalla crisi dei prezzi. perché la rivolta di Boko Haram ha una radice eminentemente di tipo religiosa, mentre la rivolta dei prezzi ha una radice di tipo economico, anche se poi questa setta religiosa che si rifà all'islamismo più radicale potrebbe effettivamente cavalcare una situazione di disagio, di malcontento che a questo punto non riguarderà più soltanto le comunità musulmane del nord, ma anche altre comunità sparse nel paese. Ecco Fabiano, chi esclude che Boko Haram possa oggi cavalcare il malcontento è Ok Nwachukwu, che è direttore news della radio Voice of Nigeria. Penso che Boko Haram e il malcontento per l'eliminazione del sussidio non siano collegabili. La paura è che ci possa essere un forte aumento dei prezzi di tutte le materie prime, mentre per Boko Haram è una questione legata alla sicurezza. Quindi per adesso non c'è nessuna connessione tra i due fenomeni. Però alcuni analisti già insomma si stanno lanciando in speculazioni dicendo che, dato che Boko Haram è, come dire, molto brava, molto efficace come formazione estremista nel cavalcare il malcontento, il disagio, la povertà del nord, insomma questo aumento dei prezzi che potrebbe mettere in ginocchio il paese nei prossimi giorni potrebbe dare linfa vitale ed è il caso di dire carburante alla operazione di Boko Haram. Ascoltiamo insieme Isaac Olawale Albert, che è professore all'Università di Ibadan, esperto di storia africana e analisi dei conflitti. È probabile che Boko Haram ottenga più consenso perché la gente è frustrata e Boko Haram tenterà di cavalcare questa frustrazione. Si pensa che questa crisi spazzerà via anche il problema del terrorismo, ma non sarà così perché il governo non se ne occupa. Abbiamo paura di finire tutti i nostri soldi, la gente è afflitta. Non si riesce a governare un popolo se lo si spinge alla disperazione. Questo è il problema che stiamo affrontando. Dobbiamo pregare Dio di aiutarci a uscire da questa situazione. E quanto sia crescente e importante la minaccia di Boko Haram. Fra l'altro c'è un editoriale di ieri dell'Independent, del quotidiano britannico, che titolava quanto il crescente conflitto in Nigeria non può essere ignorato. Fra l'altro ricordava anche i tentativi falliti di mediazione dell'ex presidente nigeriano Obasanjo. Obasanjo ha provato a fare da mediatore, a far dialogare il governo con Boko Haram, per tutta risposta è stato minacciato di morte. La crisi è dietro l'angolo. Riascoltiamo insieme la voce del professor Albert. The Boko Haram group, we are yet to find solutions to their problems. Now, by the time all workers go off strike tomorrow, the entire country will be in crisis. Siamo lontani dal trovare una soluzione al problema di Boko Haram. Dal momento in cui i nostri lavoratori incroceranno le braccia, la nostra nazione sarà in crisi e non saremo più in grado di occuparci di Boko Haram. L'aspetto più allarmante della vicenda è che questa decisione governativa di aumentare i prezzi del petrolio capita nel mese di gennaio, il mese peggiore per i lavoratori che hanno già speso tutto il salario di dicembre per le festività. Quindi penso che il governo non sia stato consigliato bene e che coloro che hanno incoraggiato il presidente a seguire questa strada lo stiano ingannando e stiano ricevendo soldi dalla criminalità. Non vedo realmente tutte queste soluzioni, vedo solo la nazione sprofondare nella crisi. Siamo preoccupati per il nostro paese. La Nigeria appartiene prima di tutto a noi, non a coloro che ci governano. Noi vogliamo che il nostro paese sia pacifico, mentre loro no. Tutto quello che vogliono fare è rendere le cose sempre più difficili per tutti. E ciò che sta rendendo le cose difficili, ripeto, in particolare al governo di Goodluck Jonathan, è l'ultimatum di Boko Haram lanciato ieri ai cristiani nelle regioni del nord, che dice: lasciate gli stati del nord, quelli a maggioranza musulmana, perché tra poco noi attaccheremo. È lo spettro di una guerra di religione che aleggia sul paese? Giro la domanda a Alessio Fabiano, esperto di storia dell'Africa contemporanea alla Cattolica di Milano. Guerra di religione è un termine un po' forte, effettivamente. La Nigeria è attraversata da una serie di conflitti interni, di cui anche alcuni religiosi, e in questo momento è soprattutto Boko Haram che si pone alla testa di questi movimenti dalla parte appunto delle comunità musulmane. Esistono comunque tante altre crisi o microcrisi che attraversano il paese e che potrebbero, a seguito soprattutto di questa decisione di aumentare i prezzi, rinfocolare, come per esempio le ribellioni nel sud del paese, quindi negli stati produttivi della Nigeria, che potrebbero nuovamente ripresentarsi a causa di questa decisione presa dal presidente. Ecco, gli analisti fra l'altro continuano a puntare il dito su quanto sia importante la Nigeria negli equilibri non solo dell'Africa centrale ma dell'intero continente. In particolare non solo gli analisti ma anche i militari, perché Carter Ram, che è il generale a capo di AFRICOM, che è il contingente statunitense che è di stanza nel continente africano, ha recentemente sottolineato quelli che sono i legami tra Boko Haram, tra Al-Qaeda nel Maghreb islamico e con Al-Shabaab, che è l'altra formazione estremista che è in Somalia. Perché è importante l'equilibrio nigeriano? Quali sono i legami, al di là dei legami che stiamo sottolineando, quelli terroristici, ma perché il paese africano è così cruciale per l'equilibrio nel continente? La Nigeria è tra i paesi maggiori a livello economico dell'Africa e dal punto di vista militare rappresenta, diciamo, un nucleo centrale per i collegamenti militari e diciamo, la stabilità di un'area, quella dell'Africa occidentale, che è particolarmente vulnerabile ma soprattutto particolarmente importante per i paesi occidentali. Guardiamo soltanto alle risorse petrogasifere e alla loro importanza per quanto riguarda l'approvvigionamento occidentale. Fra l'altro, ti interrompo perché anche l'Italia, insomma, ha interessi con la presenza dell'ENI, che è datata addirittura anni 60 nel delta del Niger, no? Sì, esatto, datata anni 60 per quanto riguarda effettivamente l'uso, diciamo, delle prime estrazioni di petrolio, ma effettivamente risale addirittura agli anni 50 le prime esplorazioni. Da qui, dicevo, l'importanza geopolitica, e per quanto riguarda Boko Haram in particolare, visto che questo è il nucleo del discorso, tenderei a sottolineare il fatto che la Nigeria ha dei confini molto porosi e le armi che giungono a Boko Haram provengono soprattutto dai paesi circostanti. Pensiamo soprattutto alla Libia oppure alla Chad, che sono paesi instabili e da cui possono transitare facilmente attraverso la Nigeria del nord, la Nigeria soprattutto nord orientale, le armi e le munizioni che poi giungono a Boko Haram e che servono ai militanti di Boko Haram per attaccare le istituzioni centrali e le autorità locali del paese. Fra l'altro, una delle misure di emergenza prese da Goodluck Jonathan è non solo schierare alcune decine di migliaia di militari nelle regioni e nelle città cruciali, tra cui Jos e Maiduguri. Maiduguri a nord è fondamentalmente la roccaforte di Boko Haram, ma è stato andare proprio a cercare quantomeno di chiudere quei confini che, appunto, tu sottolineavi sono così porosi. Dal punto di vista, diciamo, dell'armamento, è interessante sottolineare come recentemente gli stessi servizi nigeriani abbiano ammesso che Boko Haram non solo è ben armata, ma, come ha dimostrato anche il devastante attentato ad agosto, forse lo ricorderete, alla sede ONU di Abuja, che ha fatto decine di morti, stanno acquisendo una discreta conoscenza nella preparazione degli ordigni, nonché hanno cambiato tattica. All'inizio non usavano gli attentatori kamikaze, invece adesso replicano sempre di più le tecniche di Al-Qaeda. Su questo punto telegrafico, Fabiano, perché poi abbiamo l'informazione finanziaria. Sì, esatto, è importante sottolinearlo perché alcuni analisti basano il collegamento con Al-Qaeda oppure i gruppi islamici attivi in Somalia proprio sul fatto che Boko Haram abbia cominciato ad utilizzare kamikaze negli attacchi contro le autorità centrali. Questo effettivamente potrebbe rappresentare un elemento di connessione con la costellazione di Al-Qaeda. Nessun luogo è lontano. Ancora una buona giornata, gentili ascoltatori, ben ritrovati. Nessun luogo è lontano. Oggi la doppia sfida per Goodluck Jonathan e la Nigeria, la crescente minaccia dell'estremismo islamico di Boko Haram e lo stato d'emergenza dichiarato dopo l'ultimatum della setta islamica che ha detto a tutti i cristiani: abbandonate le vostre case perché tra poco attaccheremo. E poi ancora questo rialzo deciso, massiccio, quasi raddoppiato il prezzo della benzina alle pompe dopo che il governo ha deciso di tagliare i sussidi statali al carburante. Perché uno dei grandi paradossi della Nigeria, che è un grandissimo produttore di petrolio, il primo d'Africa, ma deve importare la benzina perché non è capace di raffinarlo. Cerchiamo di comprendere meglio questo colosso africano nella scheda preparata da Riccardo Polli. La Repubblica Federale della Nigeria è lo stato più popoloso dell'Africa. Con i suoi quasi 160 milioni di abitanti, comprende 36 stati confederati, 250 gruppi etnici e una popolazione che si divide quasi perfettamente tra cristiani e musulmani. La sua economia è principalmente basata sull'estrazione di petrolio, che costituisce il 30% del prodotto interno lordo, l'85% delle esportazioni e circa il 65% delle entrate statali. Le riserve di petrolio effettivamente trovate in Nigeria sono stimate attorno ai 25 miliardi di barili. Di fatto, il paese dipende totalmente da questo settore di produzione, impedendo una più proficua diversificazione dell'economia, ma facendone anche il paese più industrializzato di tutta l'Africa. Pur essendo uno dei principali produttori di greggio al mondo e il primo in Africa insieme all'Angola, la Nigeria è costretta ad importare la benzina dall'estero perché non dispone di un numero adeguato di raffinerie. Secondo stime correnti, le quattro raffinerie esistenti nel paese garantiscono a malapena il 10% del fabbisogno nazionale. L'instabilità politica e i continui problemi di sicurezza nella zona del delta del Niger, area di maggiore estrazione dell'oro nero, di fatto hanno rallentato la crescita del colosso africano, che comunque rimane il maggior fornitore di greggio per gli Stati Uniti, che assorbono più del 40% delle esportazioni, seguiti dal Regno Unito. Sul fronte della sicurezza interna, il governo nigeriano dal luglio 2009 sta conducendo una difficile lotta contro il movimento di Boko Haram, setta religiosa di matrice fondamentalista islamica che vorrebbe l'istituzione della Sharia in tutta la Nigeria con la conseguente distruzione della comunità cristiana. Attiva dal 2002, la setta si definisce antioccidentale e opera soprattutto nel nord del paese con atti di terrorismo, l'ultimo dei quali risale a pochi giorni fa, con la minaccia di rappresaglie contro i cristiani se non lasceranno il paese a breve. La decisione del governo proprio in questi giorni di eliminare i sussidi di Stato, che avevano mantenuto il prezzo dei carburanti calmierati, mina ancora di più la stabilità del paese, con proteste scoppiate su tutto il territorio. Il prezzo della benzina di molti distributori è passato da 65 naira, circa 30 centesimi di euro, a 140 naira, 0,66 centesimi di euro al litro, più del doppio in un solo giorno. Allora, una delle ragioni che alcuni analisti hanno detto aver portato il governo nigeriano a prendere questa decisione, in realtà non del tutto in attesa perché se ne parlava da 3-4 mesi, era che i sussidi finivano poi nelle tasche degli importatori di carburante. Ascoltiamo ancora insieme il professor Albert. We know those who are ruling us and we know their antics. What is going to happen is that whatever they make. Conosciamo chi ci governa e conosciamo il nostro passato. Quel che deriverà da questa crisi dei prezzi sarà l'aumento della corruzione statale. Ora il governo dice che il denaro risparmiato con questa manovra verrà investito nei servizi e nell'educazione. Penso invece che tutti questi miliardi di naira finiranno nelle tasche di qualcuno. La corruzione statale aumenterà ancora e i nigeriani sicuramente non apprezzeranno. La corruzione è uno dei problemi imperanti in tanti paesi africani, ma poi c'è un altro problema estremamente pratico, estremamente quotidiano, che il professor Albert, che è appunto un professore nigeriano all'Università di Badana, però deve anche lui fronteggiare quotidianamente. Molto spesso l'energia elettrica non è fornita dal servizio pubblico, ma bisogna dotarsi di un generatore e quindi tutti i giorni o tutte le settimane uscire e andare a acquistare benzina per far funzionare il generatore, che darà energia al frigorifero, alla radio e agli altri apparecchi elettrici dell'abitazione. I see Italy snowballing into very very big crisis in the country. Penso che il taglio del sussidio si trasformerà in una grande crisi che coinvolgerà il paese perché i nigeriani sono frustrati. Sono appena uscito per fare benzina per il mio generatore. In passato spendevo circa 60.000 naira al mese, che sono circa $400. Sono uscito oggi pomeriggio con mia moglie per fare rifornimento e ho speso $140. Oggi spendiamo più di quello che è lo stipendio medio mensile del paese e tutto questo non è più sostenibile. Quelli che fanno questa politica politica sono dei ladri e continuano a rubare. D'altra parte non è il loro denaro che spendono per fare benzina e per mangiare. Io sono un professore universitario e il mio salario non potrà sostenere questi prezzi. Mia moglie, che ha uno stipendio di 4.000 naira, è frustrata perché con il master che ha preso non può neanche rifornire un generatore. Because the entire income for my wife, a graduate with master's degree, cannot even fuel our generator. La doppia sfida per il colosso africano, per la Nigeria e per il suo presidente Goodluck Jonathan, da un lato gestire quelle che sono le inevitabili proteste dopo questa decisione appunto che ha fatto schizzare il prezzo del carburante, causando tra i tanti problemi addirittura i prezzi dei bus, dei minibus e dei mototaxi, che è un mezzo utilizzatissimo in Africa, è addirittura triplicato. L'altra grande sfida, come dicevamo, è la minaccia di Boko Haram, e ne stiamo ragionando con Alessio Fabiano, che è esperto di storia dell'Africa contemporanea all'Università Cattolica di Milano. Fabiano, secondo te quanto è ingestibile questa sfida? Quanto, cioè, in altri termini, Goodluck Jonathan ha le capacità per gestire? Partiamo dalla sfida economica, cioè questo taglio dei sussidi che potrebbe mettere in ginocchio il paese. Sì, sicuramente il presidente nigeriano si troverà davanti una situazione di crescente instabilità proveniente non soltanto dal fronte islamico interno, quindi in modo particolare da Boko Haram, ma anche e direi soprattutto da un rinvigorirsi delle tensioni di tipo economico, di tipo sociale, quelle stesse tensioni da cui ha tratto nutrimento i movimenti protesta che sono nati nel delta del Niger e che hanno precedentemente messo a dura prova il governo, prima di Olusegun Obasanjo e poi successivamente del successore che poi è morto e che poi è stato rimpiazzato appunto da Jonathan Goodluck. Aggiungo che tutte queste tensioni possono effettivamente provocare una sorta di guerra civile se si rinsaldano le une con le altre, cioè se Boko Haram effettivamente riuscirà ad attrarre la protesta e quindi farla esplodere e rinsaldarla con la protesta di tipo religioso. Ecco, fra l'altro citavi il problema del delta del Niger, di cui non si parla quasi più perché i ribelli del MEND ultimamente hanno un po' abbassato la testa, un po' per la strategia adottata da Abuja, che era insomma dialogo fondamentalmente. Un po' perché i riflettori si sono spenti su quella zona. I ribelli del MEND in realtà alzarono le loro bandiere di protesta e anche le armi pesantemente, perché dicevano insomma lo sfruttamento petrolifero andava a distruggere tutto un ecosistema, ma non solo. La gente si trovava a dover mangiare pesci intrisi di petrolio per le perdite, no? Nelle pipeline, eccetera. Azzardando un paragone tra i ribelli del MEND, di cui forse qualche ascoltatore ricorderà, sono usciti alcuni servizi, forse più all'estero che in Italia, però uscirono alla ribalta quando vi furono anche rapimenti di tecnici dell'ENI italiani in passato. Ecco, lì si cavalcava in qualche modo una causa giusta, una causa pura, si diceva lo facciamo per il nostro fiume, lo facciamo per la popolazione, era scevra da qualsiasi connotazione religiosa, no? In qualche modo era un vessillo molto, molto pulito, tra virgolette. E qui invece il problema di Boko Haram qual è? Che c'è la religione di mezzo, c'è anche una visione islamica molto intransigente, perché io ricordo che negli stati del nord esiste già tra i referenti giuridici la Sharia, però Boko Haram vorrebbe estendere la legge islamica a tutto il paese. Questo forse è uno dei punti di debolezza in questo strano paragone che stiamo azzardando, no, Fabiano? Cioè, da un lato c'era una battaglia molto scevra da qualsiasi connotato religioso, si diceva noi si combatte per la nostra gente, dall'altra parte Boko Haram dice la stessa cosa, però poi c'è la religione di mezzo che in qualche modo complica le cose, o no? Sì, esatto, è sicuramente un elemento che complica di più, anche se dobbiamo dire che il denaro può riuscire a comprare tutto. riferisco in particolare al MEND, perché il MEND alla fine non se ne parla più, o perché non prendono più le armi per lanciarsi contro il governo? Perché a quanto risulta da insomma alcune analisi ben mirate, pare che il governo sia riuscito a pagare i gruppi ribelli e la costellazione del MEND, e quindi si è riuscito in un certo modo a disinnescare la bomba MEND, mentre la bomba Boko Haram è molto più difficile disinnescarla, proprio perché ha una radice di tipo religioso, e quindi come dire, la religione ha un valore ben più importante di cioè è un elemento di connessione ben più vasto, ben più importante rispetto a quelle che possono essere appunto rivendicazioni ambientali, per quanto queste possano essere rivendicazioni giuste. Certo, cioè tu dici alla fine monetizzare il richiamo al jihad, no? Il richiamo alla sharia è ben difficile, non è un caso che Boko Haram stia rifiutando qualsiasi ipotesi di dialogo. Io ricordavo a inizio trasmissione che Obasanjo, che hai citato anche tu, che è stato più volte anche emissario dell'ONU in altre crisi africane, più o meno con successo, è stato chiamato per cercare di dialogare con Boko Haram. La risposta di Boko Haram è stata: stai attento perché ti uccidiamo. Siamo quasi in chiusura, però Fabiano, possiamo tentare di scrutare la sfera di cristallo e facciamo questo gioco, facciamo un'ipotesi. Come andrà quest'anno, questo 2012, per la Nigeria con queste due grandi sfide? Spirerà poi quel vento di rivoluzione che non è mai arrivato, quello magrebino, quello del mondo arabo, che poi nell'Africa nera non è mai spirato? La vedo molto dura, perché diciamo ogni rivoluzione ha delle connotazioni ben precise. Ora qui non abbiamo tempo per rivedere quelle del Nord Africa, però credo che l'anno che verrà, l'anno che si è appena aperto, il 2012, sarà un anno sicuramente che ci riserverà delle sorprese negative per quanto riguarda la Nigeria, e tutti stringeremo come dire la nostra attenzione per vedere come andrà a finire, sperando che ovviamente la Nigeria non si trasformi in un calderone, in una nuova polveriera che poi risucchierebbe tutti gli stati che girano intorno. Perché io ricordo, certo Fabiano, perché io ricordo che se è vero che nessun luogo è lontano, l'Africa è molto molto più vicina di quello che crediamo, e anche quello che accade in un paese apparentemente lontano avrà sempre e comunque ripercussioni anche nella nostra vita. Adesso i titoli di coda. Con i quali ringrazio Riccardo Poli e Miriam Lucchetti che hanno confezionato con me anche questa puntata, Pietro Lacorte che le ha dato la musica e il ritmo giusto, e ringrazio voi gentili ascoltatori per essere stati con noi anche quest'oggi. Noi ci risentiamo domani 13:15 puntuali, ma vi ricordo che nessun luogo è lontano.